want to like that. And my name is Ragnar Paisa. Mi è sembrato di sentire Andy MC. Mi è sembrato di vedere un gatto. Come salzano? Come salza il volume a queste cuffie? Ora non posso venirti in soccorso, Duccio. Provali tutti, quando trovi quello buono te ne accorgerai. Ti sto sentendo. Ovvia. Puntatina nuova, saluti a Andrea Mi che è malatissimo a casa. A 54 di febbre. Ci starà ascoltando per sentire se facciamo qualche stupidaggine. Più che altro dice che la gente quando c'ha la febbre si accorcia. Andrea, cioè, fatti legare le mani e i piedi a letti, perché se ti deve accorciare. Questa non vale, però. Non sta bene fare battute quando manca il diretto interessato. Allora, abbiamo 300 kg d'appunti da leggere stasera. Però io direi di così diluirli un po'. Ma sì, tra ore dilli, dopo. Dinne un po'. Ne dico un po'? Sì, almeno ci rimane tempo per dibischerare. Allora, appunti random. Anche questa settimana, copertina della puntata che domani metteremo sul blog, fatta dal grande Emidio. E a proposito di Emidio, www.cantinasociale.com, andate a prendervi l'ultimo album e tutte le robe vecchie. Yeah. Hai capito? E poi un'altra roba che non c'entra niente, www.bluenox.com, è uscito un nuovo singolo di Mecna con Gaemon che si chiama Tuta Spaziale. Esatto. Su una strumentale di Flying Lotus. Sì. Io l'ho dovuto leggere perché non lo sapevo, te magari già lo sapevi. Sì, è la strumentale del remix di I Feel Like Dying di Lil Wayne. Esatto. Una bomba, andatevela bomba, a sentire bomba. E scaricare. E queste le abbiamo dette. Le serate direi di dirle dopo, con calma. Sì, a proposito di Blue Nox mi viene in mente, se andate su Blue Nox guardatevi anche, beccatevi direttamente da lì il link della nuova pubblicità della Passat, perché è geniale. Ma lo sanno, l'ho visto, cioè, no, ho visto il link ma non sono andato a vedere. Sarebbe da comprare la macchina solo per la pubblicità perché è bellissima. Vabbè, storia di marketing a parte, Big è già pronto, quindi basta, chiacchiere le rimandiamo a dopo. Let the music play. Yuhuu. Vai. Yo, I'm coming like a cool breeze. Iced tea with a twisted lemon in the summer. Spark your yak and relax. I got the power to take them in to the max. Word, yeah. Yo, get like that Yoda, be fat and lean back. Guess I got the remedy. Many men trying to be something they ain't until they force them to look themselves in the mirror. Every day I live a cloudy sky gets clearer. Yo, my rivers move mountains, park to sea. Come bathe yourself in the fountain of funk. Yo, bump, get crunk. Like I said before, this nigga need to relax. Yeah. Like I said before, this brother need to relax. Yeah. Smoke my yak and just, I won't you chill to the max? Won't you bounce to the beat? Bounce to the beat. Everybody in the streets, won't you bounce to the beat? Yo, bounce to the beat. Bounce to the beat. Yo, fellas, if you're in the club, bounce, won't you freak? Yo, bounce to the beat. Bounce to the beat. Everybody in the streets, won't you bounce to the beat? Yo, bounce to the beat. Bounce to the beat. Like sun rays in the summertime, rain heat. What? Yo, what them niggas talking about when they talking all that bullshit? Yo, yo. Pure un buon pure di pare.

biatch. Exasperating, about to lose my breath, yeah. Talking everybody to death, yeah. Dressed to impress, deliver the stress, yo. Including everybody in the great big mess, yeah. What you have and what you got, yeah. A better man makes you not, yeah. What you have and what you got, nah. Do I really care? Nah, I do not, yeah. What you have and what you got, yeah. A better man makes you not, yeah. And what you have and what you got, nah. Do I really care? Nah, I do not. What you have, yeah, it's yours, yeah. Reap the fruit of your choice, you. Meditate, be my Lord, you. Always jabbing at your jaws, yeah. Didn't think you was insecure, you. Starting to be a boy. Exasperating, about to lose my breath, yeah. I'm talking any and everybody to death, yeah. Dressed to impress, deliver distress, including everybody in your great big mess, well, yeah. In your great big mess, well. Yeah, yeah, yeah. So what you have and what you got, yeah. A better man makes you not, yeah. And what you have and what you got, nah. Do I really care? Nah, I do not. Yes. Mi è sembrato di sentire delle voci familiari, tipo Dre Love. Può essere? Sì, sì, due volte. All'inizio alla fine. Mi è sembrato di sentire anche Da Retta. No, scherzo, no, ecco, Da Retta l'avevo conosciuto. Allora, ci siamo spartiti un po' i compiti. Aiuto. Il flyerino te l'ho dato a te, quello ora te lo gestisci te. Okay. Intanto ne dico una io. Allora, sabato 12 al Viper Theater, Overnights ospitano Herbalizer. Herbalizer. Chi c'è dopo di voi a Sonac? Non me lo ricordo. Tutti? Sì, diciamo, inizio io con un DJ set in tranquillità. Mm-hmm. Poi ci sarà il live di 20 minuti più o meno di Johnny Boy. Poi credo che ci siano proprio Herbalizer. E dopo... Da Retta? Ok. Ok, allora dopo Johnny, Da Retta, poi Herbalizer e poi Digigalessa chiude. Digi chiude. E Manu Azzeni. E con Da Retta c'è Mille Lemmy. Ah, ok, ok. E Digi chiude, tira giù il bandone e Digigalessio. Sì. Si vocifera di un live, di un jungle set. Gira voce jungle set. Ottimo, ottimo. E invece lì, il bigliettino lì? Che storia è? Questo bigliettino qua si riferisce al giorno 17 febbraio, che viene di giovedì. Mm-hmm. Il luogo è il Cargo. E l'ospite, oltre a Overnight, che sono i resident. I resident. Resident and president. Resident Evil. Ci sarà DJ Tom B. Da. From Paris. Paris. Occhiales. Paris. Come Paris Hilton. Come Paris Hilton. Piace. Quindi storie di samba. Storie di... il brother è uno dei... Oltre a essere DJ di soul, music, funk, comunque black music in generale, mm-hmm, è anche un sambista. Sambista. Attenzione. E fa parte di una scuola di samba, di una delle più forti d'Europa. Diciamolo. Che quando fanno i contest... li vincono, ecco. Di quelli che fanno i contest. Non so di quelli che partecipano e basta. So di quelli che fanno i contest e li vincono. È uno di quei 20-30 elementi che ci sono a sezioni, insomma. Mm-hmm. Fa parte di queste super scuole di 20-30 elementi. Sambist. A bestia. Buono. Questi li abbiamo detti. Ce n'è un altro da ricordare, ma tra l'altro si aspetta per Ragnar Paisa, spero per la prossima settimana, ancora non sono sicuro, il mix di 20 minuti del Tom B. Ah, ma magari. Speriamo, dai. Insomma, se ce lo manda, si aspetta gloria. Noi lo passiamo volentieri. Bye. Vabbè, tocca a Duccio, ci risentiamo. No. Mi fa gli abbocchi. Sì, dai, sparla tutta la sera se pensate di Duccio. A dopo. Get ready. Yeah. Y'all ready for some live shit? Welcome to the D, baby. It's all live down here. What you see is all real. Jay Dilla, about to set it the fuck off. Beaming like Uncle B's, clean my truck off. Y'all know they shouldn't have let a nigga up in this bitch. Obviously they don't know what they fucking with. Jay Dilla, bars, nigga. I'ma hit y'all with the new. Get off the ball, nigga. Hey, I'ma see if y'all ready. Count it down. 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, time at the Regal. Young man went out and made a name for himself. He's been on every record breaking show in the Regal Theater in the last 2 years. Ladies and gentlemen, stop. whipped me with a strap when I was bad. Loving my my music is like some sex shit. Niggas trying to grip up my mic like it's a dig. Run around the corner to pick up the new shit. That's just in the deck so niggas could catch red. I'm the motherfucker gripping the mic like it's a joke. Niggas fall in love with the music like it's a hole. Put down your mic, you lost your whole world. You take it too seriously like it's a gamble. Fuck this rap shit, I listen to classic rock. Y'all niggas just gotta test the S. It's the fantastic. I'm a raw incarnated. The old star made it back to earth, bruh. What can I do for you? Troop, you making up. And now your lady wanna do me slow. She told me your cash flow was the ultimatum. Living productively in the US. She's Filipino and brushing you off like a classy old in a casino. Now the rest of the night, you're feeling like Mr. Drano. Your stomach ain't right. You're drinking milk of magnesia. Now, bruh, life ain't gotta be like that. All you gotta do is grip your meat, laugh at her, massage her, take a bath with her, devour her, the only new shit master, faster. Yo, girl, I've been peeping you for quite some time. Finally got the nerve to see if you could be mine. We could go and smoke some trees, eat some dinner, drink wine. Talk about your mind frame, cause the stars is out and baby, you so fine. I just hope you got a different mentality. Seen a lot of places and a lot of nationalities. And y'all turned up everywhere, it's the same. Different people, different places, different spaces, different races. But everybody's still playing them same games. Hey, it got so bad, I started doing the same thing. But anyway, you we could talk over lunch. If you don't slumber, yo, here's my number, number. And hey, hey. I'ma see you at your way. Don't let the drama fluctuate. I don't wanna, I gotta, we cooking steaks. Now where would we be at if we let you do that? We probably be laying on our backs. Talking this and that, you want my, you're blind, it was whack. I never would play myself out like that, but I guess that's where you at. Just rock to the rhythm, forth and back, forth and back, forth and back, back, back, back, back, back, back, back. Don't make no sense. You ain't gotta grab the microphone to pay your rent. It's too many so-called MCs rapping. Put your shit down, you can't make it happen. Continue to do what you do so my crew can bring out the cool in you. You don't front on the S, my man. What you do is thank God for the day. Rock to the rhythm, forth and back, forth and back, forth and back, back, back, back, back, back, back. You better trust, you know you fucked up. Tell the rumors on my crew, but fuck the dumb. You gotta estimate before you tell a lie on the 788. You told my man to come and get it, and when he did it, you fronted on his ass when you did it. You won't admit it, yet you know you bullshit it. Yet you walk around town like your shit is sweet sinning. And in a minute, niggas intend to get in it. I recommend this, estimate it. Don't false advertise, no need for pretending to be someone you're not when you can't hide your feelings. Your true feelings. Cause you can't hide your true feelings. I get the feeling you got devious intentions. Acting like a willy when you're just a civilian. Cause you're hollow in the inside. Cause you got no feelings. That's why you gotta estimate your fate. Yes, you intent. You wanna be down, but you cool with all that. Oh, your bit. What love got to do with it? Ask SV, it's all bullshit. You know what love is. Say it with me one time. You know what love is. Home, love shit. You know what love is. This one is hot and sizzling. Mmm. Get up in it, start her up. Get the watch off, I'm a roller up. Big wheels, Cadillac grilled up. Keep your Escort, daddy got the dealer. Custom, plus them 22s, fuck you say, what's them? Get live with it, party with your mans, nigga. It's the official Hands in the air, let me see the wrist glow. Broken and blue. Bring the heat. Last time you hear me, I'm out now. This is the last time to cheer me. Niggas at the game is getting too slimy. Liable to make this piece, brother, turn grimy. I'ma leave it in the hands of the slum now. Take it away from where it comes from now. A lot of you cats in the music business. Shiftless, I put you on the shit list. People! People, the time has come. Ring. Thick thighs, tight jeans, pink G-strings. Strawberry lips, small hips, no green. High confident, no team. By the ball, free drink, fake smiles, bring. Ain't married, frontin' with a wedding ring. Flash for broke niggas, hot when they bling. Late night, fake affection, tease erections. Hit low, sex investments, girl, get dope. She throw it like a pro, live strip show. Nympho to the flow, bring it back like old. Too cold with it, sexy, exquisite. Niggas wanna grip and grow old with it. But you'll be lucky if you're with it. She's too cute, so yeah. Work that thing, girl. Get your money then. Five series whip down the fast lane. Allora, avete assistito con le vostre orecchie al tributo per J. Dilla fatto da Duccio. Duccio? Al juggling più che altro. Non so quanti pezzi, insomma, avevo suonato una quarantina di frappezzi e beat. Li volevo mettere tutti, ne volevo mettere di più, però. De più, de più. Più veloce di così non sapevo come fare. Dilla Tribute. Dilla Week. Poi, perché ora te sei ospite su questo microfono, ma sull'altro microfono di là prova il microfono. 1 2 1 2. 1 2 funziona subitissimo. Allora, ospite per parlarci della serata di venerdì alla Flog. A sorpresa, quindi. Sorpresone, dai, 2 settimane lo diciamo. Dicevo, ospite al microfono Lapo, Justation. Blessed love to one and all. Allora, venerdì, che succede alla Flog? Ridiciamolo. Beh, venerdì c'è un pezzettino di storia della musica dub, nello specifico, che avremo il piacere di ospitare sull'impianto Jazz Station per la prima volta a Firenze, in Toscana. In particolare, The Mighty Zulu Warrior, Jazz Shaka. Pezzettino, un pezzettone di storia. Anzi, la storia. Mi tenevo basso, low profile, perché... Esagero io, la storia, Jazz Shaka. Io lo definirei così, l'artista che tutti gli artisti citati durante la serata, anche quelli che ci sono sabato al Viper, andrebbero a vedere. Eh sì, come si fa? Dai. Tanto alla fine gira gira e si torna sempre al dub. E se si torna al dub tocca parlare di Jazz Shaka, insomma, non ci sono discussioni. Due paroline proprio veloci per spiegare chi è. Praticamente è colui che ha codificato negli anni 70, anni 80 e poi anche fino ai giorni nostri uno stile inconfondibile che poi tutti hanno emulato, copiato, non mi sembra brutto dire adottato così. Sennò anch'io sarei un grandissimo copione, quindi... Sei un emulatore. Sì, un emulatore. Adottato lo stile proprio, quello che è diventato poi il set, diciamo, di quando si va a sentire suonare un sound che suona dub e roots. L'impostazione è quella, insomma. Ti dirò la verità, la prima volta che hai visto Jazz Shaka ti ci ho portato io. E vi dirò la verità, lo volevo dire io, ma Mazzanti è sceso. È vero, è vero, è vero. Parecchi anni fa, non mi ricordo che anno era. Beh, forse 2003, questi due ragazzacci nella veste di Schoolboy Sound e non di queste vesti strane che si mettono ora e non si capisce bene che cos'è, mi portarono in quel villaggio globale. Il villaggio globale a Roma, sì. Seratone, E da lì mia mamma ancora chiede i danni a Duccio, perché... Fino alle 6 di mattina, session infinita di Jazz Shaka. Mi ricordo che finì, era giorno praticamente, esatto, era tipo l'ora di pranzo. Io ci rimasi sotto perché alle 4:30 di mattino, 5, mentre albeggiava, eravamo rimasti forse 20-30 persone nella yard. Gli irriducibili. Gli irriducibili nella yard. Lui riprende il microfono in mano come se niente fosse e inizia a ruggire come un leone e è andata avanti fino alle 6. Esatto. Purtroppo all'Auditorium Flog non avremo questa fortuna perché i permessi sono quelli che sono. Eh beh, ma tipo fino alle 4, no? 3:30 ufficiali, 3:30. Poi speriamo che minuto dopo minuto riusciamo a rosicchiare qualcosa, però sicuro alle 11:30 in bocca a Shaka, ragazzi. Ottimo, ottimo. Biglietti? Biglietti, vi consiglio boxhall.it per cercare le prevendite che sono ridotte, mm-hmm. E comunque ridotti fino alle 23 per tutti a 10 euro, dopodiché 13. Ottimo, nice and easy. Buono, allora venerdì tutti al Flug. Io, se posso, approfitto di questo piacevole spazio radiofonico per promuovere altre 2-3 cosette. Il 19 di febbraio sarò su in quel di Milano con Dread Lion Hi-Fi. Yes. Poi avremo un'altra data al Cargo il 26 di febbraio con Biologic, fra il dubstep e il roots. E poi il 25 di marzo, che sarà un venerdì, sempre al Cargo, in anteprima, prima data italiana per Oxman Soul Jazz. Oh man, super. Grazie a tutti per lo spazio e gustatevi buono, le selezioni. Buono. Tocca a Bubu, ci sentiamo dopo. We'll be right back. biatch. We'll be right back. Thank you. Ci siamo? Eccolo. Eccolo. Allora, dobbiamo ricordare le ultime due o tre cosine e più precisamente dobbiamo anticipare un po', poi comunque ne parleremo la settimana prossima, meglio, della serata del 25, di venerdì 25, serata Red Bull Academy in collaborazione con Vibra Night. Ci sarà Mala dei Digital Mystics alla Flogga e a suonare prima in Numa Q. Ci sarà anche Andrea Mi e Biologic Sound, cioè Nadine e compagnia. Inoltre, il 13 marzo, quindi cioè parliamo proprio di parecchio in là, alla, sempre alla Flog ci sarà Africa Bambata. Dico, il 13 marzo è un... sarà un venerdì, credo. Venerdì. Dico queste cose prima perché su boxol.it si possono acquistare le prevendite. Interessante. Stessa cosa per Jashaka, anche, anche per Jashaka si possono acquistare le prevendite su boxol.it. Poi voglio dire due cose velocissime. Una è segnalare un blog che mi è arrivato in mail, è arrivato sulla mail del blog di Ragnan Paisa, che forse sono l'unico a controllare. Sicuramente. Mi è arrivata la segnalazione di questo blog che, metto le mani avanti, ancora non ho avuto il tempo di leggere, allora, ecco. Di leggere per... lo voglio segnalare perché come cosa perché come cosa sembra interessante, però ancora non ho letto. In pratica si chiama Nude Spoons Euforia, scritto Nude Spoons Euforia con PH, come la mafia col PH. Mamma mia, col PH. No, ma dimmi la verità, c'è una strada di bambine dietro questo blog. Molto. Punto wordpress.com. Punto wordpress.com. Poi magari lo aggiungiamo fra i link del blog. Questo blog in pratica parla, no, è figa come idea, perché parla di cover di canzoni, però so cover strane, cioè non roba commerciale, capito? Okay. Cioè proprio i gruppi più assurdi. E c'è questo ragazzo che fa tipo parte da questa cover, mette il video, comunque l'audio, da YouTube, e ci scrive tutto un articolo sopra. Quindi insomma andatevi a dare un occhio, io nel frattempo ci vado a dare un occhio. Vai. E poi riferisci. E poi riferisco. Ultima cosa velocissima, leggo un attimo dalla mail, perché scrive Marcus di Hyperdub, ricorda che questa... guarda che mi tocca fare, oh. Cioè che alla fine della settimana uscirà il singolo di Funky Steps per Hyperdub, che è quello che ho suonato qualche settimana fa in promo. Fuller e Hurricane Rhythm. Basta. Questo è quanto. Vi lasciamo nelle arriva mani. Arriva Tommy solo 45. Solo 45 giri. Vai, Opus Studio One. No. E alla prossima, lunedì prossimo. Vai. Yo! tried to teach me. Now I ain't scolding, but that's the way to love. That's how I feel in my heart. I've got to say, oh, how I suffer. My pride just to be by her side, and so hey, I really mine. I'd never say other words. Like jumping. your trust in vanity. For only Jah can help you and set you free. Little Miss Mary, you're quite contrary. I'll get it all on gold with silver bells and cracker shells. Time's so rough, and time's so tough. Oh, time's so rough. Coming from the country with my bag of Cali, I fuck up on a DC. Him want to fool me. Don't you run now, youth man. You won't get away. If you slip, you will die. And if you run, you can't hide. For I've got my dick stuck right in my hip now. Whoa, DC. Don't you take my eyes shut. Whoa, DC. Don't you touch my collie. Whoa, DC. Call you up, your lies and gain. I have had enough. So have your aid. We have lost the time that was so hard to find, and I will lose. I don't know why you would want to hide. I can't get you. My hands are tied. I won't want to stay. I don't have much to say, but I can turn my way, and you won't see me. We met by mistake. her charms we kiss, and in a travel place. The writing, the writing.